być ta droga. Chcę być moim przyjacielem tu. Od tych konfrontacji każdy dzień wiążą nas ze sobą. Każdy robi nie ze świętej pieci. Chcę być twoim przyjacielem. W najgorszym momencie wiedział, że nikt nie przegrasz i nikt nie wyjdzie sam. Chcę być twoim przyjacielem. W najgorszym momencie wiedział, że nikt nie przegrasz i nikt nie wyjdzie sam. E un saluto a tutti e tutti anche da parte mia per questa puntata del 24 luglio, di giovedì 24 luglio. Come sempre ogni settimana ci troviamo qui a trasmettere dagli studi di via Volturno a Udine, Radio Onde Furlane che ci ospita, un programma, come già stato detto, autogestito, che ha una lunga tradizione e radici molto profonde. E come sempre, ripeto, un breve così lancio degli argomenti che andremo a così condividere questa sera, e poi ancora musica e poi partiremo effettivamente. Quindi partiamo con così la frase di promozione che abbiamo scelto questa sera era: irriducibili, in fuga, al contrattacco, parole, suggestioni per disertare la propaganda di guerra. E lo faremo lanciando anche l'iniziativa, per chi abita qui nei dintorni, che ci sarà allo spazio autogestito di via De Rubes 43 a Udine, spazio autogestito di Udine, dove domani sera un'iniziativa antimilitarista, una semplice proiezione di un telefilm della serie Black Mirror che si intitola Men Against Fire, e di questo e di annessi e connessi parleremo questa sera. Andiamo avanti con la musica. Oh! La CIA finanziò molti accademici della Ivy League, fra cui ad esempio Ewan Cameron, primo presidente della World Psychiatric Association, il quale sosteneva di poter ridurre la mente del paziente al suo stato infantile per poi riprogrammarla. E i cui esperimenti causarono la morte di un numero sconosciuto di pazienti e provocarono conseguenze drammatiche ai sopravvissuti. Questi esperimenti erano parte di un programma di ricerca top secret intrapreso dalla CIA, il progetto MK Ultra, secondo il suo direttore Sidney Gottlieb. Per ottenere il controllo della mente bisognava prima spazzare via la mente esistente per poi iniettarne una nuova. MK Ultra era il proseguimento diretto del lavoro iniziato nei campi di concentramento nipponici e nazisti, non solo perché si basava su quegli esperimenti, ma anche perché la CIA fece arrivare dagli Stati Uniti proprio i vivisezionisti e i torturatori che avevano lavorato nei campi di concentramento. Anche Henry Murray, pioniere del test della personalità, ebbe varie collaborazioni con l'esercito e con la CIA. In uno dei suoi esperimenti, Murray misurò la reazione di 21 studenti di Harvard a una situazione volutamente e a loro insaputa stressante e umiliante. L'esperimento ebbe un impatto profondo su uno di questi studenti, il giovane Ted Kaczynski, e forse contribuì in parte a fare di lui un uomo contro il fuoco. Chi era Ted Kaczynski? Naturalmente, penso che lo si sappia, era una bomber, così, un uomo d'azione, diciamo, un individualista radicale, critico radicale del sistema industriale, diciamo così. Morto, scomparso, detenuto nelle carceri americane, dove era sepolto da decenni, mi sembra. Allora, quello che ho letto era un estratto di questo articolo che consiglio vivamente, Uomini contro il fuoco, di uno pseudonimo che è nient'altri che Walter Witz, e dal quale abbiamo tratto spunto per appunto l'iniziativa che vi dicevo poco fa di questa puntata del telefilm della serie Black Mirror, che si intitola proprio Man Against Fire, cioè Uomini contro il fuoco. E vado velocemente a riassumervi praticamente quella che si chiama la trama, ma quattro parole su quello che si vede. E niente, è il ambientato in un futuro prossimo, anonimo, potrebbe essere, essendo produzione britannica, potrebbe essere Gran Bretagna, ecco, dove vediamo queste squadre di militari molto armate fino ai denti, molto, diciamo, squadre selezionate, diciamo così, potrebbe essere la Folgore, ecco, per dirne una, in Italia, e andare in un'azione direttamente, vengono portati in questo villaggio dove gli abitanti del villaggio li indirizzano, cioè li indicano concretamente dove si trovano questi scarafaggi, fra virgolette. Scarafaggi sono delle persone non desiderate, che vengono lì a rubare, fare danni, così sembra dal contesto. Quando vediamo però in azione le squadre che vi dicevo prima, squadre speciali di soldati armati fino ai denti con fucile d'assalto, eccetera eccetera, Andiamo nella loro, appunto, sulla loro visione, e vediamo che queste non sono persone, ma sono esseri mostruosi, ecco, dalle sembianze mostruose, e che soprattutto non si sentono, non parlano, ecco, non si sentono le loro parole, vengono semplicemente eliminati, schiacciati come insetti. Questo qua è lo scenario. Perché abbiamo scelto questo scenario? Ci è sembrato che, a parte le considerazioni che vengono sviluppate nell'articolo che vi dicevo prima, ci sembrava che ci fossero delle affinità, dei paralleli da fare con quello che sta ormai è avviato da 2 anni già, che c'è nella striscia di Gaza. E quello che abbiamo portato avanti, il genocidio che abbiamo portato avanti dall'IDF e associati, ma non nella questione, insomma, cause eccetera, è proprio una questione superficiale di come viene portato avanti questo intervento militare sulla popolazione civile, come viene come viene a noi ributtata indietro, come viene rimasticata e restituita questa situazione, cioè come il discorso è: ma questi non sono, per quanto possa essere assurda questa cosa, non è popolazione civile, voi dite che così, noi sappiamo che è pieno di terroristi, stiamo agendo per la nostra sicurezza, stiamo massacrando i nostri nemici che sono sparpagliati in mezzo alla popolazione civile. Questo noi non ci possiamo far niente, no? Allora, nel telefilm invece c'è questo apparato, adesso uno spoiler, ma tanto si capisce dai primi 5 minuti, c'è questo apparato neuronale applicato all'interno della calotta cranica, diciamo, di ogni soldato, per cui i soldati, la visione che hanno i soldati è come quella che si ha, per farvi capire, insomma, coi filtri di certi social, di certe app dei social media, dei social network, no? Quei filtri che fanno apparire le cose migliori di quelle che sono, nel caso, insomma, di Instagram e avanti, e di TikTok eccetera. E nel nostro caso si prende spunto da una ricerca che aveva fatto questo generale statunitense nel 1947, un veterano della guerra del 14-18, poi appunto durante la seconda guerra mondiale si era occupato raccogliere, insomma, ricostruire le varie percorsi, varie azioni dell'esercito in Europa, l'esercito statunitense in Europa, e si chiamava Marshall, questo generale dell'esercito. Lui, attraverso delle interviste dirette con chi aveva partecipato alle azioni nella seconda guerra mondiale in Europa e chiaramente sul fronte pacifico anche, avevano fatto questa valutazione che praticamente solo il 15, al massimo 20% di quelli che hanno uno scontro diretto ravvicinato col nemico, no? Non all'arma bianca, insomma, con l'armi da fuoco, solo tra questi, solo il 15-20% arrivava all'obiettivo, cioè a eliminare il nemico. Gli altri si bloccavano per vari motivi, non era uno psicologo, Marshall, comunque lui l'attribuì a una paura dell'aggressione dovuta alla norma sociale, insomma, che di cui, insomma, tutti abbiamo, siamo tutti, diciamo, occidentali siamo impregnati, il discorso di non uccidere, no? Anche, che c'è anche nei comandamenti dei testi sacri. Da questo 15-20% molto basso, gli apparati militari statunitensi lavorarono, appunto, misero a lavorare anche tutta una serie di esperti e così, ricercatori delle scienze sociali, per arrivare preparati all'appuntamento con col Vietnam, appunto prima la Corea, dove successe di tutto di più, e poi si arrivò al Vietnam. Però adesso facciamo una pausa. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo i Past Matters, band di Pola, questo è da un loro split datato 2011. Eccoci qua di nuovo, facciamo una piccola digressione dal discorso, poi ritorneremo su questa vicissitudini della psicologia in guerra. Notizia che abbiamo visto dal programma radio La Nave dei Folli: Api Cyborg, la nuova frontiera del controllo cerebrale per insetti. Scienziati cinesi creano il controller cerebrale più leggero per insetti, api e scarafaggi cyborg rivoluzioneranno soccorso e sicurezza, ma con dilemmi etici scopri di più. Va bene. Praticamente hanno realizzato questo controller che non è altro che un modo di dire il dispositivo che connette praticamente gli apparati umani, diciamo gli arti o simili, no? alla fine impulsi elettrici, cioè andando alla radice secondo questa metodologia, no? Tecnologica, gli impulsi li collega a quelle che sono gli input e gli output del dispositivo informatico o insomma digitale, meglio detto. Questo controller che hanno realizzato pesa solo 74 mg ed è inferiore a quello di una sacca di nettare trasportata da un'ape. Pensate, quindi l'ape, il suo compito è portare il nettare al suo alveare, possibilmente caricando, e ha, diciamo, ha delle caratteristiche il volo dell'ape, per cui loro hanno una forma talmente aerodinamica che riescono a caricarsi molto più della loro massa corporea senza riuscendo a volare, ecco, cose appunto che la natura ha realizzato al di là della possibilità della mente umana, no? Va bene. E questi che sono del BIT, Beijing Institute of Technology, ma le stesse cose sono state già testate anche dall'altra parte del Pacifico, non c'è minima preoccupazione per questo. Loro hanno in testa di praticamente di queste flotte di insetti controllate mentalmente attraverso questo dispositivo, che viene a collegare direttamente il cervello del sistema nervoso, diciamo meglio, degli insetti al comando militare. Quindi attraverso tre aghi penetrano nel sistema nervoso e inviano impulsi per direzionare il volo di queste povere creature. E sono circuiti stampati su pellicole polimeriche sottili, flessibili, altro che, sarebbe a dire che plastica, molto, cioè, chiaramente microscopica, e stanno testando questo sistema, ecco, di sottomettere anche queste appunto bestioline ai loro progetti di controllo. Comunque le utilizzerebbero naturalmente prima di tutto in campo militare, farebbero da informatrici, direbbero insomma quelli che sono i movimenti del nemico, missioni di ricognizione militare, operazioni di soccorso post terremoto. Onestamente non capisco come questo sia possibile. Contesti naturalmente di antiterrorismo mettono, e lotta al narcotraffico, no? Per aumentarla, diciamo, continuare a sostenere la pace sociale, no? Questa era la notizia. Tornando a noi, il telefilm di cui parleremo domani, di cui vedremo domani qui a Udine, Man Against Fire, a un certo punto il soldato protagonista, che si chiama Sniper, ha un problema consiste nel fatto che quello che lui vede non consiste più di mostri, cioè i nemici, i cosiddetti scarafaggi, non sono più degli scarafaggi, ma sono solo delle persone vestite di stracci in fuga, e inoltre parlano una lingua a lui comprensibile. Naturalmente rimane scioccato e poi appunto si arriva alla conclusione della puntata, che vi lascio giustamente non detta. Tornando al discorso del, appunto, di queste scienze sociali, di questa psicologia in guerra, dicevo prima che anche Ted Kaczynski, una bomber, finì dentro uno di queste sperimentazioni. In Corea, dicevo prima, in Corea successe questo, che alcuni soldati si convertirono al maoismo, quindi superarono linee nemiche e divennero prigionieri dell'esercito, appunto, nordcoreano, e divennero divennero affiliati, insomma, alleati, andarono a combattere contro gli statunitensi. Il punto era per loro esercito americano, era per il discorso che lì emerse questa cosa, che il punto, l'anello debole della loro catena di comando era proprio il cervello. Se i coreani, se i russi, i cinesi erano in grado di fare il lavaggio del cervello al soldato americano, e il soldato americano disertava e passava all'altro fronte, lì bisognava intervenire, di questo meccanismo perfetto che è l'esercito, insomma, appena uscito vittorioso dallo scontro, sia con la Germania nazista, sia con l'imperialismo nipponico. E successivamente, appunto, ci furono varie evoluzioni, insomma, anche dal punto di vista della cibernetica. La cibernetica fu, insomma, sì, man mano, insomma, parallelamente a questo discorso dei militari, delle scienze sociali, della psicologia, anche la cibernetica si sviluppò in maniera si moltiplicò, ecco, volevo dire. Ci furono vari passaggi finché si è arrivati, insomma, alla fine degli anni 90, con i primi veri successi di queste famose interfacce neurali, cioè i primi esperimenti dove le tre scimmie posizionano il cursore sullo schermo di un computer solo tramite la loro attività cerebrale, senza muovere un muscolo. Quindi erano questi cavi che senza, dove era stata impiantata l'interfaccia neurale, con gli impulsi che riceveva questa placca dal cervello delle cavie, era stato collegato uno schermo, e dove, appunto, i cursori si muovevano in base ai segnali elettrici che arrivavano dal cervello delle cavie, in sostanza. In due decenni successivi si arriva a questo, diciamo, altro grande successo della cibernetica, della biocibernetica, per dir meglio. Nel 2015 una donna paralizzata viene messa in grado di pilotare un simulatore di volo di F-35, quindi di caccia multiruolo di quinta generazione, quello che è guidato solo con impulsi cerebrali, ecco. Allora, stiamo vedendo sempre insieme questo articolo che vi dicevo, Uomini contro il fuoco, che è contenuto, non l'ho detto, dentro la rivista Disfare, numero 1, di cui abbiamo qualche copia qui, ma che naturalmente voi potete richiedere all'indirizzo disfare@autistici.org. È in arrivo anche il numero 2. A un certo punto il discorso che vi dicevo prima sul telefilm, andiamo un po' verso la conclusione, Certo, c'è questo amuletto, diciamo, che fa funzionare il racconto, cioè si blocca questa placca neurale. La placca neurale permette ai soldati di non avere empatia e di massacrare le persone indesiderate, devianti o simili, insomma. Il punto però è che questi soldati sono solo sono, diciamo, la superficie di un sistema che comporta il fatto che loro vengono chiamati lì dai paesani, che sono in allarme perché qualcuno ha rubato le loro riserve, no? Sono venuti lì, si sono stabiliti lì questi sconosciuti, questi, ecco, i paesani non hanno nessuna placca, i paesani non stanno neanche a guardare, cioè vivono in una maniera talmente a un livello talmente separato dalla realtà che non gli serve nessuna placca per non riconoscere nello straniero o nel, come si diceva prima, nel deviante un loro simile. Loro chiamano direttamente le forze speciali e queste naturalmente agiscono come fossero un braccio biocibernetico dell'apparato del dominio di Stato, no? Ok. Il punto è come si è arrivati a questa situazione, come si è arrivati con una serie di appunto una serie sostanzialmente, cioè con uno schema, ma non uno, tanti schemi messi in serie che hanno portato alla situazione in cui siamo oggi, di sfruttamento ma non percepito, dove c'è appunto una massa di gente che viene a cui vengono estorti i desideri, cioè vengono diretti i loro desideri attraverso tutto il lavoro che viene fatto sulla questione dei dati che vengono prelevati dai colossi del digitale. Non è un furto perché sono miei personali, no, è l'uso che viene fatto, la predizione che viene fatta nei consumi, perché oggi non serve più fare pubblicità, praticamente la pubblicità è una roba, non so, è una sopravvivenza di qualcosa di veramente un fossile di un'altra epoca, perché è buttare a pioggia non si sa dove, no, l'esistenza di una merce. Le merci oggi vengono, diciamo, viene creata la domanda in maniera individuale su ogni singolo consumatore. Il consumatore deve essere espropriato anche della sua capacità di scelta tra varie merci. Ecco, questo, si vuole arrivare là, mi sa che manca poco, perché appunto quello che è stato messo in piedi è un apparato diffusamente di controllo diffuso, cioè a varie segmenti, ecco, questo controllo. Ecco che quindi da quel telefilm lì, secondo me, è questa l'esito di quel telefilm lì, è questo, insomma. Non è tanto il soldato, la questione del soldato che ammazza come insetti i suoi obiettivi. Il discorso è: ma chi lo tiene in piedi? Lo tiene in piedi tutta la gente che in questo momento, ad esempio, cosiddetta popolazione civile, cosiddetta opinione pubblica israeliana, non sta sta protestando, sì, per i suoi ostaggi, per i prigionieri che Hamas continua a tenere come merce di possibili risoluzione della loro situazione, ma non per altro, cioè non per questioni umanitarie prima di tutto, meno che meno, ecco, ma anche tutta una serie di altre questioni empatiche sono state cancellate. In sé, tra l'altro, anche la questione dell'empatia andrebbe un minimo ricontestualizzata, cosa che non faremo stasera perché già un bel po' che parlo, e io direi, se è pronta la regia, che possiamo andare avanti con la musica. Bene, dopo questa canzone ribelle palestinese andiamo all'ascolto di questa band inglese, loro sono gli Active Minds e dal loro album Age of Mass Destruction ci ascoltiamo alcuni brani. We'll be right back. Sì, un saluto anche da parte mia. Mi ricollego un po' al discorso della, diciamo, riprogrammazione così cerebrale, ma anche della sensibilità di cui si parlava prima, appunto, relativamente al filmato Man Against Fire, appunto questa incepparsi, diciamo, di questa riprogrammazione del cerebrale e anche emotiva, appunto, che permette di di smettere di vedere, appunto, l'altro, il nemico, comunque colei o colui che non si adeguano, diciamo, alla norma, come permette di non mostrificare, appunto, ma di in qualche modo riconoscere l'altro come simile, no? Quindi, insomma, e quindi di rifiutarsi, appunto, di annientarlo. E mi ricollego a questo discorso parlando stasera dei refusnik di Gaza. C'è questo articolo che è uscito qualche giorno fa sul blog Invicta Palestina, che vi invito ad andare a guardare, perché ci sono anche le foto di questi refusnik, di alcuni giovani uomini e donne che, appunto, si rifiutano hanno prestato servizio militare a Gaza e non solo. Adesso vedremo alcune testimonianze, leggeremo alcune testimonianze, e ora si rifiutano. Ci sono le foto che sono, secondo me, sono significative, anche vedere questi giovani, appunto, sì, le loro, nel, insomma, le loro, i loro corpi, i loro volti. E allora, questo articolo è un articolo scritto da una donna ebrea, insomma israeliana, con l'aiuto di Arez, che, appunto, è questa testata, diciamo, dissidente abbastanza libera dello Stato di Israele. E ci dice Yael Gazit, che è l'autrice dell'articolo: come si può iniziare a scrivere del rifiuto quando ci sono così tante cose a cui resistere? Per me il rifiuto significa anche dire addio a gran parte della mia identità di israeliana cresciuta qui. Ci sono ancora parti di quell'identità che posso amare? Spesso la risposta è no. Eppure il rifiuto, che è una sorta di fine, può e dovrebbe anche essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Forse sono processi paralleli: lasciare andare e accogliere, rifiutare e accettare, smantellare e ricostruire. Per superare la stanchezza e il torpore, aggrapparsi alla possibilità di immaginare un nuovo tipo di appartenenza. E quindi viene messa in discussione un po' tutto, no? Non solo il discorso di rifiutarsi di sparare, diciamo, sulla popolazione indifesa, ma anche un po' interrogarsi sulla propria identità. E tra questi varie testimonianze di questi giovani, appunto, refusnik, io inizierei da una testimonianza che mi ha colpito particolarmente, che è del ragazzo più giovane di tutti questi. È un ragazzo di 22 anni, di Gerusalemme, Itamar Schwartz. Lui dice: sono il sergente Itamar Schwartz, comandante di carri armati. Sono cresciuto a Kar Sava, in una famiglia religiosa sionista, e ho smesso di essere praticante a 19 anni. È difficile dire a come sono arrivato ad avere le opinioni che ho oggi. Il 7 ottobre, la preparazione finale per l'offensiva, l'ingresso a Gaza, le prime 3 settimane, durante le quali ho perso il conto di quante volte sono stato vicino alla morte. I missili anticarro, il ritorno a Gaza, gli attacchi di panico, essere messo in licenza per problemi mentali e spostato nelle retrovie una volta reintegrato, fino al congedo. Tutto questo, ovviamente, ha avuto un suo impatto. Sì, è vero, ero pronto a morire per questo. Accettavo la possibilità che nella battaglia per riportare a casa gli ostaggi potessi essere io a non fare ritorno. Il tempo è trascorso. Non occorre raccontare cosa è successo in questi ultimi anni. Tutti siamo passati attraverso l'inferno. Tutti i miei amici sono stati sul punto di morire, eravamo stati inviati a salvare gli ostaggi, avremmo anche potuto non tornare. Come a tutti, il 7 ottobre mi ha ricordato l'Olocausto. E naturalmente ho immediatamente pensato al mio viaggio in Polonia, durante le superiori, e a ciò che il nostro insegnante aveva cercato di instillare in noi. I nazisti, i tedeschi, i loro collaboratori erano tutte persone, persone normali che si conoscevano, che avevano sogni e speranze e bla bla bla. Il 7 ottobre ci ha mostrato cosa le persone possono fare dopo essere state sottoposte al lavaggio del cervello e credono di essere moralmente superiori per volere divino e quando hanno la capacità e il tempo di pianificare. Un mio commilitone ha scherzato sul massacro della farina e su quanti terroristi erano stati uccisi. Un altro ha raccontato la storia di un comandante macho che ha sparato in testa a un prigioniero perché questi gli aveva sputato addosso. Questa guerra avrebbe potuto finire, l'ininterrotto massacro dei Gazawi avrebbe potuto terminare, gli ostaggi avrebbero potuto tornare a casa. Se non ci fermiamo, se non chiediamo scusa al popolo palestinese e non lo aiutiamo a ricostruire, lo Stato di Israele ha i giorni contati. È così semplice. La guerra deve finire. Gli ostaggi e i prigionieri palestinesi devono ritornare a casa. Dobbiamo sperare in un futuro assieme ai palestinesi. Questa è l'unica strada. Diversamente né noi né loro avremo alcun futuro. Solo insieme possiamo sopravvivere. Sì, questa testimonianza è, secondo me, importante perché appunto intanto viene da un ragazzo così giovane che comunque comandava i carri armati, insomma era comandante di carri armati, quindi immagino addestrato da tempo. E beh sì, ricordiamo, insomma lo sappiamo più o meno tutti che nello Stato di Israele la leva è lunghissima, no? Sono 3 anni e comunque è obbligatoria per maschi e femmine e comunque si può venire richiamati, è una, diciamo, un patto del cittadino con lo Stato intoccabile. E questa roba emerge, questa roba dell'intoccabilità. Sì, una cosa che mi aveva colpito è il fatto che questo giovane ha avuto questa, diciamo, questo contatto con lui parla di problemi mentali, questo vissuto di psichiatrizzazione, comunque di disagio mentale, no? Che in qualche modo gli ha come, per come leggo io questa sua testimonianza, gli ha aperto forse una finestra in più nella deprogrammazione, diciamo, che è la sua autodeprogrammazione che gli ha permesso di guardare, cioè di attivare la coscienza, insomma, e di rifiutarsi di continuare a fare quello per il quale era stato programmato che facesse. E poi questo discorso, questa profezia, insomma, che lui fa dello Stato di Israele con i giorni contatti, che non è una cazzata, cioè una roba significativa anche da un punto di vista filosofico, diciamo. E di altro tenore sono le testimonianze di altri refusnik. A me colpisce, prima si diceva appunto dietro i militari che hanno la calotta sì, modificata, insomma, per cui possono massacrare senza provare alcuna sensazione, degli esseri senzienti viventi della loro stessa specie, ma che questi militari non vedono come appunto appartenenti alla stessa specie. Però non ci sono solo questi militari, ci sono anche le persone che chiamano i militari, no? Quindi il condizionamento, insomma, è generale. E anche in questa testimonianza che ho appena letto, appunto, emerge molto anche questo, no? Questa cosa della visita in Polonia di questa mitizzazione, diciamo, del vittimismo, di sentirsi superiori, non toccati, diciamo, dal male estremo, in quanto agenti il male estremo, ma solamente di sentirsi solamente vittime. E dicevo, altre testimonianze hanno anche un altro tenore, ad esempio più, diciamo, pragmatico e anche spaventoso, per come la vedo io. E ad esempio c'è questa testimonianza di Daniel Rak Yahalom, di 32 anni, di Haifa. Non sono mai stato a Gaza, dal 2019 sono stato riservista dell'IDF nella West Bank. Mi sono sempre considerato un sionista di sinistra e mi sentivo estremamente imbarazzato nello svolgere quel servizio, presumibilmente in nome della sicurezza, perché in pratica sostenevo un progetto a cui mi opponevo, ma credevo fosse un esercizio di democrazia e una mia responsabilità verso un esercito del popolo, impedendo che l'IDF diventasse una milizia dell'estrema destra o fosse privatizzato in un qualche tipo di esercito mercenario. Dopo il 7 ottobre fui inviato ai confini con la Giordania, ma la maggior parte delle mie attività avevano a che fare con i palestinesi e con il provvedere alla sicurezza dei coloni. Anch'io ero rimasto scioccato da quello che era accaduto quel giorno e pensavo di dover contribuire allo sforzo nazionale. Dopo due turni, ovvero circa 250 giorni di servizio, il governo di Netanyahu annunciò una nuova operazione, abbandonando praticamente gli ostaggi al loro destino e affermando chiaramente che questa guerra faceva parte di quel progetto politico che i coloni stavano portando avanti da anni nella West Bank. Con crimini di guerra come questi, con la legittimazione della guerra e con gli ostaggi ormai perduti, non mi restò altra scelta che rifiutarmi di servire. Fui trattenuto in una piccola prigione per 5 giorni, un prezzo molto piccolo da pagare. E vabbè, e poi ci sono altre cose. Ron Feiner, 26 anni, sempre di Haifa, studente di filosofia, scienze politiche ed economia all'Università di Haifa e lavoratore nel campo dell'istruzione, ci dice: durante le guerre ho prestato servizio come comandante di un plotone di fanteria per 270 giorni, suddivisi in 3 periodi diversi, i primi 2 al confine libanese e il 3° nel Libano stesso. Quando sono stato richiamato per la 4ª volta, dopo una lunga e difficile lotta interiore, ho scelto di non presentarmi. Mi sono rifiutato di presentarmi in servizio quando è diventato chiaro, oltre ogni dubbio, che il governo israeliano stava prolungando la guerra per il bene della sopravvivenza politica e della conquista di Gaza e che era disposto a sacrificare gli ostaggi, i civili di Gaza, i soldati dell'IDF e qualsiasi speranza di un futuro sicuro e pacifico per perseguire i suoi vili obiettivi. Dopo che il cessate il fuoco è saltato a marzo, condannando gli ostaggi a un periodo indefinito di prigionia nei tunnel, è diventato ovvio che non rimaneva neppure un barlume di speranza che i leader del nostro governo dessero priorità al loro ritorno. Era chiaro che la vita umana non significava nulla per loro e che erano pronti a continuare una guerra che uccide decine o centinaia di palestinesi ogni giorno e in cui i soldati dell'IDF muoiono quotidianamente. Solo nell'ultimo mese 20 soldati sono stati uccisi. In tali condizioni era chiaro a me e molti altri che tornare in combattimento sarebbe stato eseguire un ordine palesemente illegale con una gigantesca bandiera nera che sventolava sopra di esso, un ordine che non doveva essere eseguito. 5 centimetri, questa è la distanza che ha separato un proiettile dal mio cranio. Quel proiettile ha colpito la torcia attaccata al mio casco. Tengo questa torcia con me ora e la guardo di tanto in tanto. Mi ricorda quanto tutto sia fragile, come la vita di una persona possa finire in un attimo. Mi ricorda il danno e la distruzione che questa guerra sta causando. E mi ricorda il peso delle nostre azioni, anche le più piccole, e come ogni piccola scelta che facciamo possa avere un impatto enorme. Sì, questo Refusnik appunto rimane sconvolto dalla morte di 20 soldati, che 20 soldati, cioè rispetto alla strage quotidiana e dell'ultimo 2 anni e mezzo, 20 soldati non sono nulla, no? Cioè, nel senso che dei soldati vanno in guerra, i soldati sanno che stanno andando in guerra e sono armati fino ai denti, però questa roba, chiaramente lui, questo Refusnik è stato soldato, quindi si medesima nella sorte dei suoi commilitoni, ma io rimango abbastanza sconvolta da questa percezione di enormità, diciamo, della sofferenza dei soldati dell'IDF, ma che è una roba totalmente sproporzionata rispetto a quello che sta succedendo al popolo palestinese. E mi sembra che non c'è, che anche in questi Refusnik, che comunque chiaramente è una roba importante che ci siano queste crepe, ma è una roba, secondo me il lavaggio del cervello di cui parlava Itamar è talmente profondo che alcune cose sfuggono ancora, cioè non c'è una, secondo me non c'è un'umanizzazione, non c'è una percezione dell'umanità, dell'altra umanità, insomma. E vabbè, poi ci sono altre cose, ecco, un'altra per terminare, prima di finisco, prima di insomma di ridare la parola alla regia, e un'altra testimonianza che colpisce è quella di Michal Deutsch, che è una donna di 30 anni di Gerusalemme, e anche questa testimonianza è, cioè c'è, se vogliamo, da parte di questa persona, di questa donna, una adesione, cioè un credere che sia possibile una eticità dell'esercito, cioè lei crede, diciamo, rifiuta di, si è rifiutata insomma di andare, di prestare ancora servizio, e quindi si dedica a altre cose, adesso leggerò, però la convinzione che sia possibile, diciamo, una eticità, una giustizia esercitata da parte dell'esercito, di Stato, cioè lei ci crede, no? Quindi è una roba, difatti dice, se andate a vedere l'articolo sul blog Invicta Palestina, cioè, ci sono le foto, appunto, lei indossa questa maglietta, una maglietta con una sorta di sole dell'avvenire, un fiume e una scritta in ebraico. Lei dice: questa maglietta mi accompagna dal mio anno di servizio nazionale volontario e per tutto il mio servizio militare regolare. Mi sono arruolata come soldato combattente nel battaglione Caraval perché volevo servire il paese nel modo più significativo possibile. Mi ha accompagnato questa maglietta quando ho iniziato a rendermi conto che stavo partecipando ad azioni illegali, anche quando pensavo ancora che questa fosse l'eccezione nell'IDF, attraverso la mia transizione al veganismo e verso una profonda comprensione della non violenza durante il mio servizio militare, attraverso i miei studi di scienze naturali, di giurisprudenza e nel mio attivismo. L'ho indossata quando mi sono offerta volontaria al Civilian Operation Center per assistere le persone scampate al massacro del 7 ottobre e anche quando sono entrata volontaria nell'esercito come riservista. Come riservista ho scoperto che la professionalità e i valori che mi erano stati insegnati come soldatessa erano molto lontani da gran parte dell'IDF, soprattutto sotto l'attuale governo criminale che usa i soldati in lutto dopo il 7 ottobre per la sua politica irresponsabile e i propri meri interessi. Quando chiesi chiarimenti sulla politica dell'utilizzo delle armi da fuoco da parte dei soldati, mi fu risposto che nell'esercito non c'era spazio per la politica. Questo mentre Chanel Four, il portavoce del governo, trasmetteva musica in sottofondo e i nostri soldati gioivano per le bombe che partivano dalla nostra base, incuranti delle vittime. A un matrimonio che venne celebrato nella base, un rabbino parlò di tempi miracolosi. Professionalità e compassione non esistevano. Mi rifiutai di continuare a servire con quei presupposti. Quando chiesi di essere trasferita in un reparto che si occupava di evacuare i feriti, sperando ingenuamente di poter riuscire ad aiutare anche i civili innocenti, l'esercito rifiutò, probabilmente per un mio passato arresto durante una manifestazione antigovernativa. Oggi mi rifiuto di far parte dell'IDF in qualsiasi modo. So che l'unico scopo di questa guerra è la sopravvivenza di questo governo, al prezzo di migliaia di bambini Gazawi sotto i 6 anni uccisi e il cui numero aumenta costantemente, di quello degli ostaggi, dei soldati e della sicurezza di tutti noi. L'IDF non può proteggerci, cancellando tutti i valori basici che dovrebbero essere una guida. Spera possano arrivare giorni migliori. Attualmente il mio modo di servire il paese, cioè lo Stato di Israele, perché è il paese con la P maiuscola, e partecipare alle manifestazioni proprio per cercare di promuoverli e favorirli. Quando stavamo recuperando gli animali delle persone che vivevano ai confini con Gaza, ho trovato una bambola fuori da una casa bruciata, piangendo l'ho portata a uno dei soldati che mi stava aiutando. Sembrava avesse bisogno di un po' di tenerezza nel mezzo dello stress, per ricordargli per cosa stavamo davvero combattendo. E conclude questa Michal Deutsch: un vero soldato sa provare compassione e sa come agire professionalmente, secondo le regole, non spinto dall'odio e dalla vendetta. È così che continua a combattere, anche se non più nell'IDF. Queste insomma sono le parole di alcuni refusnik che appunto a partire da luglio hanno rifiutato di ritornare a combattere. E solo due cose su questa roba: quando parla del recuperare le persone, gli animali delle persone che vivevano ai confini con Gaza, magari ne parliamo un'altra volta. C'è anche tutta una campagna abominevole messa in piedi dallo Stato israeliano e da varie associazioni, diciamo, che si definiscono antispeciste europee, che portano via gli asini da Gaza. Gli asini sono fedeli compagni, diciamo, del popolo palestinese, in quanto in tutti questi 2 anni e mezzo, ma anche in precedenza, cioè c'è una tradizione, diciamo, di vita comune tra la popolazione e gli asini. E però c'è questa roba per cui gli asini sarebbero chiaramente denutriti, visto che la gente muore di fame, anche gli asini non se la passano bene, e c'è tutta questa campagna, insomma, di salvataggio degli animali. E, ecco, e quindi tutto questa visione come in uno specchio deformante, no? della realtà, e sì, che secondo me è molto scioccante, insomma. Comunque, così, anche questo è l'esito. Comunque, anche qui qualcosa si è inceppato, quindi anche i militari dell'IDF possono, gli si può inceppare il meccanismo, e quindi possono vedere, cominciare almeno a vedere che chi hanno davanti sono esseri umani, esseri viventi, e non appunto insetti o mostri. E allora io ricordo ancora l'iniziativa di domani, la proiezione appunto di questo episodio di Black Mirror, un'iniziativa antimilitarista che si inserisce un po' in tutte le iniziative che stiamo portando avanti in questo ultimo periodo, e appunto presentazione dell'opuscolo che ha un po' così analizzato le attività dello stabilimento Leonardo di SPA di Ronchi, dei legionari, e che iniziative che vogliono arrivare, diciamo, a una manifestazione prevista per il 13 settembre. L'iniziativa di domani, quindi la proiezione, poi insomma si sta un po' insieme, si discute su quello che si vede, sarà nello spazio autogestito di Udine di Via De Rubeis 43 a partire dalle ore 20:30, e tutte le compagne e compagni, insomma, che sono in zona, che hanno voglia di partecipare, sono le benvenute e i benvenuti. لكن ولدحر الأعداء انتفض نساء الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين. Bene, siamo tornati all'ascolto degli inglesi Active Minds dal loro album datato 2017, The Age of Mass Destruction, comunque band che si era formata all'incirca a metà anni 80 ed è tuttora esistente, mentre poco prima abbiamo ascoltato anche un brano di una canzone della resistenza palestinese. Bene, ora anche come sempre purtroppo siamo al termine di questa trasmissione, mancano pochissimi minuti, la trasmissione è Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane qui da Udine, ogni giovedì anche oggi 24 luglio 2025 e ovviamente in diretta dalle ore 20 alle 21.30. Come di consuetudine ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo alla mail liberetutti@autistiche.org oppure scrivere alla casella postale in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che tutte queste trasmissioni che noi ogni giovedì trasmettiamo potete riascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi l'appuntamento è il prossimo giovedì, salutiamo tutti e anche chi ha la possibilità di ha sicuramente voglia anche di riascoltarci domani sulla web radio, Radio Eustachio, dalle ore 11 del mattino di venerdì, e poi anche in replica su Radiazione dalle ore 17. Bene, l'appuntamento è per il prossimo giovedì, e vi lascio con un ultimo brano di quest'altra band inglese, loro sono i Restarts, e quindi il brano è Uprising. Quindi ciao a tutti, al prossimo giovedì. تسلم يا وطننا.